Capitolo 139. La conquista di Pilo. Eracle in seguito mise a sacco e a fuoco la città di Pilo, perché i Pili avevano prestato aiuto agli Elei. Uccise tutti i figli di Neleo, eccetto il più giovane che era lontano in Germania, ma Neleo stesso riuscì a scampare. Atena, che sempre si schiera dalla parte della giustizia, combatté per Eracle, e Pilo fu difesa da Era, Posidone, Ade e Ares. Mentre Atena impegnava Ares, Eracle affrontò Posidone, clava contro Tridente e lo costrinse a cedere. Poi subito corse in aiuto di Atena con la lancia in pugno e al terzo assalto trapassò lo scudo di Ares, stendendo il dio al suolo. Infine, con un colpo potente vibrato alla coscia, affondò il ferro nella carne di Ares. Ares dolorante si rifugiò sull'Olimpo dove Apollo versò unguenti sulla ferita che si rimarginò in un'ora. Tosto Ares si gettò di nuovo nella mischia finché una freccia di Eracle non lo colpì alla spalla. Frattanto Eracle aveva ferito anche Era alla mammella destra con un'altra freccia. Il figlio maggiore di Neleo, Periclimeno l'Argonauta, ebbe da Posidone il dono di una forza senza limiti e la facoltà di assumere qualsiasi forma gli piacesse, uccello, belva o albero. In quella circostanza egli si trasformò dapprima in leone, poi in serpente e infine, per sfuggire all'attenzione, si appollaiò sul giogo dei cavalli di Eracle sotto forma di formica o mosca o ape. Eracle, a una gomitata di Atena, riconobbe Periclimeno e agguantò la clava, ma subito Periclimeno si trasformò in aquila e tentò di accecarlo a colpi di becco. Una freccia scoccata dall'arco di Eracle lo colpì sotto l'ala, cadde a terra e la freccia gli penetrò nella gola, uccidendolo. Altri tuttavia dicono che Periclimeno riuscì a volare via sano e salvo e che Eracle aveva attaccato Posidone in un'altra circostanza dopo l'assassinio di Ifito quando Neleo rifiutò di purificarlo, e che il combattimento con Ade si verificò nell'altra Pilo, in Elide, quando Eracle fu sfidato dal dio perché si era portato via Cerbero senza permesso. Eracle affidò la città di Messene a Nestore, poiché ricordava che Nestore non aveva tentato di derubarlo del bestiame di Gerione e ben presto lo amò più di Ila e di Iolao. Fu Nestore che per primo giurò per Eracle. Gli Elei, benché avessero contribuito alla riedificazione di Pilo, approfittarono della debolezza dei suoi abitanti e li vessarono in molti modi. Neleo riuscì a dominare la propria collera finché un giorno, avendo mandato un suo carro con 4 splendidi cavalli, vincitori di molti premi, a una gara dei giochi olimpici, seppe che Augia si era appropriato di carro e cavalli e aveva rimandato l'auriga a Pilo a piedi. Allora ordinò a Nestore di fare una spedizione punitiva nella pianura Elea e Nestore riuscì a razziare 50 mandre di bovini, 50 greggi di pecore, 50 greggi di capre, 50 branchi di maiali e 150 cavalle baie, molte di esse con puledri, respingendo gli Elei che tentavano di opporglisi e bagnando per la prima volta la sua lancia nel sangue. Gli araldi di Neleo convocarono allora in Pilo tutti coloro che avevano crediti con gli Elei e dopo aver diviso tra di loro il bottino, trattenendo però per Nestore la parte del leone, Neleo sacrificò generosamente agli dei. 3 giorni dopo gli Elei avanzarono su Pilo in pieno assetto di guerra. Tra loro vi erano i 2 figli orfani di Molioni, che ne avevano ereditato il titolo, e attraversarono la pianura a Triessa. Ma Atena scese dall'Olimpo nottetempo e mise in allarme la gente di Pilo. Quando i 2 eserciti vennero a battaglia, Nestore, che era appiedato, abbatté con un colpo di lancia Marinceo, il generale degli Elei. Poi, impadronitosi del suo cocchio, piombò come nera nube di tempesta sulle schiere dei nemici, conquistando 50 altri cocchi e uccidendo 100 uomini. Anche i Molioni sarebbero caduti sotto i colpi della sua infaticabile lancia se Posidone non li avesse avvolti in una nebbia impenetrabile, soffiandoli via lontano. Gli Elei, incalzati dall'esercito di Nestore, fuggirono sino alla rocca Olenia, dove Atena impose loro di fermarsi. Si giunse così a una tregua. Amarinceo fu sepolto a Buprasio e onorato con agoni funebri, cui concorsero numerosi abitanti di Pilo. I Molioni vinsero la corsa dei cocchi stringendo Nestore alla curva, ma si dice che Nestore stesso vinse tutte le altre gare, il pugilato e la lotta, la corsa a piedi e il lancio del giavellotto. Dobbiamo aggiungere che in seguito, giunto ormai alla vecchiaia, Nestore assistette come spettatore a questi giochi. poiché per la grazia di Apollo, che gli concesse tutti gli anni negati agli zii materni, egli visse per 3 secoli e nessuno dei suoi coetanei era ancora al mondo per mettere in dubbio la sua età. La conquista di Pilo pare sia un altro episodio della invasione achea del Peloponneso avvenuta nel 13° secolo. Era, Posidone, Ade e Ares, cioè le divinità più antiche, danno il loro aiuto agli Elei. Le più giovani, come Atena nata dalla testa di Zeus ed Eracle in qualità di figlio di Zeus, si oppongono a esse. La vittoria di Eracle su Periclimeno, l'uomo che cambia continuamente forma, si riferisce forse alla soppressione di un sacrificio infantile in onore dell'anno nuovo, e la facoltà di Periclimeno di trasformarsi in albero si riferisce invece a quanto pare alla successione di 13 mesi che l'Interrex mimava nel suo balletto rituale, ogni mese contraddistinto da un albero emblematico, dall'olivo selvatico al mirto. La ferita inflitta ad Ade ci presenta Eracle come un campione destinato a sfidare l'oltretomba e a divenire immortale. Inoltre, secondo Omero, egli ferì Ade a Pilo tra i cadaveri, il che potrebbe anche significare ai cancelli tra i morti. I cancelli sarebbero quelli dell'aldilà, situati forse nel lontano nord. Se così stanno le cose, Ade è un sostituto di Crono, che Eracle sconfisse nella sepolcrale isola di Erizia, e questa battaglia è un doppione della 12ª fatica, quando Eracle scese all'inferno. Gli alleati pili di Eracle, aiutati in modo significativo da Atena, sono descritti da Omero come Achei, benché la dinastia di Neleo fosse in verità Eolia. Eracle, che colpisce Era alla mammella destra con una freccia a 3 punte, pare un'allegoria dell'invasione dorica del Peloponneso occidentale, quando le 3 tribù che si autonominarono figli di Eracle umiliarono il potere della dea degli Elei.